Un benvenuto a tutte e tutti a questa prima puntata di Arivista Pod, in cui presenteremo i contenuti del numero 442DA, il numero di aprile 2020, e presteremo una particolare attenzione al tema della crisi ecologica a cui è dedicata la copertina. A presentare il numero nella prima parte di questa puntata sarà Paolo Finzi, della redazione di A. Nella seconda parte della puntata proporremo alcune riflessioni sulla crisi ecologica in atto a partire dal dossier di 25 pagine presente nel numero. E nella terza parte parleremo del libro Nella Giacomelli, un'anarchica controcorrente, scritto da Ercole Ungaro e edito dalla casa editrice anarchica Zero in Condotta. Ascolteremo la recensione del volume dalla viva voce di Selva Varengo, che ne ha scritto proprio sul numero 442DA. Ricordo che il numero di aprile è disponibile in versione cartacea e reperibile sul nostro sito www.arivista.org, è anche scaricabile in PDF e leggibile online, sempre sul nostro sito. Presentiamo oggi il numero 442, aprile 2020, della rivista. In vista di questa presentazione ho dato un'occhiata al sommario e ho contato 43 articoli indicati appunto nel sommario. Chiaramente il dossier di apertura è sul coronavirus e vi collaborano sette nostre persone, collaboratori, amici, amiche, dallo psichiatra riluttante Piero Cipriano a Daniela Mallardi, Stefano Boni, Francesco Codello, che in genere si occupa prevalentemente di pedagogia, un nostro collaboratore fisso come Andrea Papi e il nostro grande amico Carmelo Musumeci, ergastolano, al momento non più all'ergastolo. Ma siamo l'unica rivista non carceraria che ha dato una rubrica a un ergastolano e ne siamo fieri. E si occupa naturalmente Carmelo Musumeci, anche nel prossimo numero, di carcere e coronavirus, un tema assolutamente importante. C'è questo dossier sul coronavirus, di cui appunto suggeriamo la lettura, ma una scelta editoriale precisa ci ha spinto a non occuparci solo di coronavirus e anche nel prossimo numero, nel numero successivo, quello di maggio, il coronavirus sarà al centro della nostra attenzione, ma non esclusiva. E questo è un nostro modo di reagire anche a questa campagna folle e demenziale. Poi approfondiremo magari il tema sul coronavirus e tenere le menti aperte anche su altre tematiche. E allora fra i tanti articoli troviamo anche articoli sullo spaccio della droga, una decina di recensioni, Sacco e Vanzetti, la psichiatria a scuola e tanta musica con i nostri due collaboratori fissi sulla musica, ma non esclusivi, che sono Marco Pandin e Alessio Lega, e troviamo appunto tante altre tematiche. Uno dei nostri compiti è quello che ci siamo proposti, è quello di tenere aperta la mente, tenere aperte le riflessioni, non sembrare i telegiornali che martellano in maniera interessata e vergognosa solo su questo tema. Quindi coronavirus per una riflessione, ma tanti altri temi per questa rivista che ha, e questo è il primo numero che presentiamo in podcast, che ha una sua lunga storia alle spalle, quasi 50 anni, che festeggeremo con il primo numero dell'anno prossimo 2021, una rivista che affonda le sue origini appunto nel febbraio del 1971. La nostra proposta è dunque quella di leggere la rivista, di trovare, come noi speriamo, almeno alcuni articoli che interessano, dell'importante dossier sull'ecologia parla la mia collega redattrice, co-redattrice della rivista anarchica, Carlotta Pedrazzini, e poi, come sempre, lo accennavo prima, ci sono le recensioni e di una di queste parlerà poi più tardi Selva Varengo, presentando anche in podcast il libro che ha recensito nella nostra storica rubrica Rassegna Libertaria. Quindi buona lettura a tutte e tutti. La copertina del numero 442 di questo aprile 2020 è disegnata da Harry Pusch, è dedicata al tema dei cambiamenti climatici. Di questo argomento si occupa un dossier di 25 pagine dal titolo Quanto manca, la crisi ecologica è già iniziata e che raccoglie i contributi dei nostri storici collaboratori sulle tematiche ecologiche Adriano Paolella e Zelinda Carloni, della giornalista Matilde Spadaro, del nostro corrispondente dall'Australia Fausto Buttà, del collettivo antagonista milanese Off Topic e del climatologo Luca Mercalli che abbiamo intervistato. Il dossier si apre con lo scritto di Adriano Paolella e Zelinda Carloni dal titolo Cambiamenti climatici e cambiamenti umani. Le risorse diminuiscono, si legge nel sottotitolo, la popolazione cresce e l'inquinamento aumenta, ma i governi prendono impegni vaghi e i singoli individui non cambiano stile di vita. Per affrontare la crisi climatica c'è bisogno di un'azione sociale collettiva e di politiche condivise. L'articolo mette in luce i limiti, di un approccio alla risoluzione della crisi ecologica e climatica basato esclusivamente sull'economia circolare e a questo proposito i due autori scrivono: l'economia circolare è indicata come la modalità per migliorare l'efficienza e quindi ridurre le emissioni, migliorando i cicli di vita delle merci, modificando i caratteri delle stesse per favorirne il riciclo. È un'ipotesi intelligente, generata dalla cultura industriale, che fin dagli anni 70 del secolo scorso, in presenza delle crisi energetiche e petrolifere, perseguì il risparmio dell'energia per ridurre i costi della produzione con la definizione di strategie quali la spirale del miglioramento continuo. Ma tali impostazioni appaiono risolutive solo in presenza di una contemporanea contrazione demografica e della quantità di merci, mentre quando si è in presenza di un continuo incremento della popolazione e dei consumi, è palese che esse abbiano una capacità palliativa e non risolutiva dei problemi. È semplice constatare tale inefficacia. Ad esempio, sono decenni che si persegue l'efficienza ambientale degli autoveicoli, ma nonostante le singole macchine abbiano migliorato le loro prestazioni, l'incremento del numero degli autoveicoli, dei chilometri percorsi e della riduzione del tempo di vita medio di un'auto hanno aumentato significativamente le emissioni del settore. In molti altri settori, invece, all'aumento dell'efficienza non è corrisposta alla riduzione delle emissioni. L'articolo di Adriano e di Zelinda continua ponendo l'accento sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali e collettivi e anche sull'importanza della gestione delle tecnologie da parte delle comunità. Infatti, la scelta delle modalità di risoluzione della crisi climatica deve anche rispondere a dei criteri di equità sociale e su questo argomento, cioè sulla gestione delle tecnologie da parte delle comunità e sulla scelta delle tecnologie da utilizzare, Adriano e Zelinda scrivono: prima di ricercare soluzioni tecnologiche innovative, si dovrebbe verificare se l'energia è utilizzata, ad esempio, per produrre cose utili, se vi siano modalità di eliminare gli sprechi, se vi siano alternative praticabili che non creino monopoli, che non favoriscano tensioni, che non accrescano le ricchezze di pochi e che siano accessibili a tutti. Ad esempio, nel caso della produzione energetica, sono già disponibili tecnologie che possono essere gestite direttamente da comunità e singoli individui, che potrebbero connettere direttamente produzione e consumo senza intermediari. Possiamo continuare a rafforzare un sistema che concentra la produzione, che crea monopoli e ricchezze abnormi, che accresce la povertà diffusa e la sudditanza di intere regioni e popoli, oppure possiamo concentrarci su una tecnologia utilizzata nel quadro di una modificazione dei comportamenti, dello sviluppo non basato solo sulle merci e della riduzione dei consumi. Gli autori, di questo scritto si concentrano anche sulla critica alle politiche ambientali messe in atto dai governi. Attraverso questo dossier abbiamo anche cercato di riflettere sui legami tra clima e demografia. Sappiamo infatti che in un sistema chiuso nessuna specie può crescere all'infinito senza creare danni irreversibili all'ambiente in cui è inserita e a se stessa, nemmeno quella umana. Eppure parlare di controllo delle nascite in relazione alla crisi climatica e ambientale è ancora considerato un tabù, non soltanto negli ambienti religiosi e di destra. Anche la sinistra non ha mai voluto occuparsi seriamente della questione per non entrare in conflitto con la Chiesa, lasciando la battaglia per il controllo delle nascite a una minoranza più radicale e anarchica che la porta avanti da oltre un secolo. Certo, sarebbe scorretto pensare di fronteggiare il cambiamento climatico concentrandosi solo sulla demografia. Il controllo delle nascite non sostituisce la critica all'attuale sistema economico e sociale, ma questo non può farci tralasciare il tema dell'impossibilità di una crescita infinita anche della popolazione. Dunque noi della redazione ci siamo posti la domanda: perché quando ci occupiamo di crisi ambientale è importante parlare anche di controllo delle nascite? E lo abbiamo chiesto a Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico e presidente della Società Meteorologica Italiana. A lui abbiamo posto questa domanda: che relazione c'è tra crescita demografica e crisi ambientale? E Luca Mercalli ci ha risposto in questo modo. Tutti noi consumiamo risorse e in una società sempre più tecnologica ogni persona consuma sempre più energia, beni e materie. Dunque, al di là dell'emotività, dei tabù sociali e religiosi di cui possiamo caricare il problema demografico, se ci concentriamo su parametri fisici non c'è nulla da fare. Il mondo ha una capacità limitata di rifornirci e di assorbire i nostri rifiuti, che diventano sempre più complessi. Quello dell'uso delle risorse non rinnovabili e dei rifiuti non biodegradabili è un problema a lungo termine. In passato ci sono stati momenti di crisi locali di sovrappopolazione, con relativi problemi alimentari o anche sanitari, ma gli effetti non ricadevano sulle spalle delle generazioni future. Pensiamo alla Londra del 600, una città sovrappopolata con problemi nella gestione dei rifiuti, che erano organici e biodegradabili e dunque non producevano effetti a lungo termine. Oggi invece è tutto cambiato. Abbiamo materiali complessi, chimica di sintesi, tutto un insieme di prodotti di scarto che sono tossici e che generano lasciti per secoli e per millenni. Dunque, Luca Mercalli ci segnala che il problema centrale quando si affronta il tema della crisi ecologica è quello dell'irreversibilità dei danni arrecati al pianeta. Gli abbiamo rivolto un'altra domanda: come si risponde da un punto di vista ambientale a chi parla di crisi demografica e di necessità di fare più figli per sostenere l'attuale sistema economico e sociale? E Luca ci ha risposto in questo modo. C'è chi oggi invoca l'aumento della natalità pensando ad esempio alle pensioni, senza riflettere sul fatto che le risorse sono finite. Ma se il sistema pensionistico, così come è impostato, ha funzionato bene fino a un certo punto e adesso non si sostiene più, possiamo cambiarlo. È più facile cambiare il sistema pensionistico piuttosto che le leggi della termodinamica, eppure questa cosa non riusciamo a capirla. Poi Luca prosegue dicendo: ritengo che sia assurdo voler rimettere in moto la natalità quando si ferma, come in Italia, perché se ciò accade significa che si è raggiunto un equilibrio. A dire il vero, in Italia, anche se la natalità è rallentata, non si è comunque raggiunto un equilibrio, perché si vive molto al di sopra delle proprie possibilità in termini di risorse, che infatti vengono prelevate da altri paesi del mondo. Se dovessero vivere utilizzando le risorse del loro territorio, le persone che oggi abitano in Italia, 61 milioni, avrebbero un tenore di vita peggiore di quello degli anni 30. Poi a Luca abbiamo rivolto anche questa domanda. Chi si occupa di aborto e di controllo delle nascite spesso viene accusato di voler limitare la libertà delle donne e la loro scelta di maternità. Lo stesso succede a chi mette in relazione aumento demografico e crisi ambientale. Cosa rispondi a chi ritiene che sottolineare la correlazione tra aumento demografico e crisi climatica significa auspicare politiche autoritarie e lesive della libertà delle donne? E Luca ci ha detto: dico che è vero il contrario. È proprio nei paesi in cui si verificano esplosioni demografiche che la libertà delle donne è limitata. Ci sono persone che dicono che il controllo delle nascite è una limitazione della libertà delle donne, quando invece le donne che fanno tanti figli molto spesso sono quelle che non hanno la libertà di scegliere. E proprio sulla questione della libertà individuale e dell'autoritarismo, Luca Mercalli afferma: se non inizieremo a mettere in relazione l'aumento demografico e la crisi ambientale, le disposizioni autoritarie arriveranno sicuramente. Lo dimostra l'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus. Non si stanno forse prendendo misure autoritarie? Però le persone con la strizza stanno zitte e accettano. Accettano che si blindino paesi e che si metta la polizia alle porte. Qualcuno per caso ha sollevato il problema della libertà? Quando i problemi ambientali diventeranno pari a quelli oggi percepiti per il coronavirus o peggio, verranno fatte scelte autoritarie. Al contrario, la riduzione della popolazione raggiunta attraverso l'educazione sessuale è una disposizione democratica. Queste sono le riflessioni di Luca Mercalli. Aggiungiamo noi una nostra riflessione, e cioè che visto che nessuna specie, inclusa quella umana, può crescere in maniera illimitata all'interno di un sistema chiuso, è chiaro che dietro alla negazione che fare molti figli influisca sull'ambiente ci siano di fatto dei pregiudizi di tipo politico e religioso. Politico perché non si vuole che la donna si sottragga all'unico ruolo previsto per lei nella società, il ruolo di madre, e religioso perché parlare di controllo delle nascite significa parlare di contraccezione, di aborto, di sessualità libera, significa slegare il sesso dalla procreazione. Questa era l'intervista che abbiamo fatto a Luca Mercalli dal titolo «Più siamo, peggio è». La qualità dell'aria, ma non solo, è stata fortemente compromessa nei mesi scorsi dagli incendi che hanno devastato l'Australia. Ne ha scritto però il nostro corrispondente Fausto Buttà, che nell'articolo dal titolo Dietro quei drammatici roghi riflette sul fatto che gli incendi che hanno devastato l'Australia tra il 2019 e il 2020 ci ricordano che il punto di non ritorno è già stato superato. La crisi ecologica è già iniziata, si legge nel sottotitolo dell'articolo, servono più fatti e azioni concrete per provare a limitare i danni. E nel suo scritto Fausto dice: gli incendi del 2019-2020, cominciati ufficialmente all'inizio di settembre, hanno bruciato 12 milioni di acri, vale a dire un'area superiore alla superficie dell'Austria. 33 persone sono decedute, inclusi 7 pompieri. Il WWF Australia ha dichiarato che più di 1 miliardo di animali sono morti, senza contare rane e insetti vari. Alcune specie sono ora in via di estinzione. Più di 2.700 case sono state distrutte. 8.000 edifici in tutto sono stati rasi al suolo. Secondo l'Ufficio Meteorologico Nazionale Australiano, il 2019 è stato l'anno più caldo mai registrato. La temperatura media annuale in Australia è aumentata di 1,52 gradi Celsius rispetto al periodo 1961-1990, con una media nazionale di 30,9 gradi, mentre le temperature massime sono aumentate di più di 2 gradi. Ciò non si spiega solo con la posizione geografica dell'Australia, esattamente sotto il famoso buco dell'ozono, ma anche e soprattutto con il fatto che il 75% della ricchezza nazionale è prodotto dall'industria del carbone e le emissioni di CO2 sono tra le più alte del mondo. Poi Fausto, nel suo articolo, continua dicendo: la scienza ci dice che se anche smettessimo domani di emettere diossido di carbonio, i prossimi 10 anni sarebbero comunque tra i più caldi in assoluto, e purtroppo non sembra ci sia intenzione di fermare questo trend. Le calotte polari dell'Artico e dell'Antartico si stanno sciogliendo a un ritmo più veloce di qualsiasi previsione allarmistica. Il ghiaccio dell'Artico è di 2/3 inferiore rispetto agli anni 70, il suo scioglimento è previsto entro i prossimi 5 anni. Allo stesso modo, lo scioglimento del continente antartico ha avuto negli ultimi 40 anni un'accelerazione del 280%. È un effetto domino, una reazione a catena che ha intrappolato nell'atmosfera del pianeta il calore equivalente a 400.000 bombe atomiche rilasciate a Hiroshima. Le conseguenze di tutto ciò sono incendi, malattie, mortalità, siccità e inondazioni. Non solo, ma ogni giorno 150 specie di animali e piante diventano specie in via di estinzione. Il tema è tragico e spaventa molte persone, eppure molti di noi si rifiutano di affrontare il problema più grosso, l'elefante nella stanza, ovvero l'estinzione della specie umana. Finalmente, grazie appunto allo storico lodigiano Ercole Ongaro e alla casa editrice Zero in Condotta, abbiamo il primo libro biografico pubblicato su Nella Giacomelli. Nella è stata una donna che ha dato tanto al movimento anarchico e libertario, sia da un punto di vista intellettuale sia da un punto di vista militante. Tra i principali impegni di Nella è sicuramente quello della propaganda delle idee anarchiche, propaganda che fa soprattutto attraverso gli articoli che scrive e che pubblica su moltissime testate sovversive. E nei suoi articoli Nella si occupa di molti temi, tra cui la sua visione del socialismo e dell'anarchismo, la critica alla situazione sociale, l'importanza dell'anticlericalismo, il problema dell'educazione, le riflessioni sul matrimonio e il libero amore, la situazione delle carceri e l'antimilitarismo. Proprio quest'ultimo in particolare, il suo impegno contro la guerra, è particolarmente importante sia per le sue elaborazioni teoriche sia per il suo impegno pratico. Nella è impegnata anche da un punto di vista teorico, scrivendo numerosi articoli in cui si dimostra essere quella che lo storico Piercarlo Masini chiamerà la voce dell'intransigenza anarchica e del più rigoroso internazionalismo. Nella si oppone infatti con fermezza a qualsiasi intervento militare, a qualsiasi forma di guerra, sia essa guerra di intervento o guerra di difesa. E nel dopoguerra, poi Nella Giacomelli è tra le principali sostenitrici della necessità di fondare un quotidiano anarchico, che uscirà poi effettivamente nel febbraio del 1920 con il nome da lei proposto di Umanità Nova. E certamente non è possibile definire Nella Giacomelli come una femminista nel senso attuale del termine, anche perché stiamo parlando di inizio Novecento e nemmeno come una protofemminista. Però Nella aveva ben presente l'esistenza di quella che potremmo definire oggi una questione di genere ed è in grado sicuramente di fornirci, nelle sue elaborazioni degli strumenti di riflessione validi ancora oggi. Per prima cosa, Nella denuncia più volte i pregiudizi e le difficoltà di partecipare in quanto donna al dibattito politico e sociale. E lei stessa, come si legge nella biografia, ha dovuto subire più volte attacchi personali nascosti sotto una parvenza politica. Proprio per questi motivi Nella sottolinea spesso la necessità per le donne di acquisire, oltre che una coscienza politica, anche una coscienza di genere, esortandole a prendere consapevolezza del proprio valore e della propria forza in quanto donna. Nella inoltre denuncia come anche tra gli anarchici moltissimi non si sono ancora emancipati dal passato, da una mentalità di oppressione e sfruttamento femminile. E in questo senso si inserisce la sua dura critica all'istituzione del matrimonio e contro la famiglia tradizionale, vista come una gabbia per l'individuo e una gabbia che in quanto tale spesso sfocia inevitabilmente in violenze e stragi familiari che ieri riempivano le cronache, ma come sappiamo le riempiono anche oggi. Quella di Nella è infatti una battaglia per il libero amore, più in generale contro il pregiudizio morale che non risparmia nessuno. È contro questa mentalità borghese che Nella proclama la ribellione e la rivoluzione per poter creare una società improntata a un ideale di libertà e di amore. Una società anarchica che per Nella non sarà soltanto il prodotto di una rivoluzione, ma sarà anche il risultato di una lunga e paziente preparazione delle coscienze. Per questo motivo Nella insisterà spesso, soprattutto a partire dal primo dopoguerra, sul problema dell'educazione e sul problema di una trasformazione morale e culturale in senso libertario. Con questo ultimo intervento chiudiamo la prima puntata del podcast di A Rivista Anarchica. Vi invito ad inviarci dei feedback con commenti, suggerimenti, idee ai nostri contatti che sono la mail arivista@rivista.org. Su Facebook ci trovate alla pagina A Rivista Anarchica, su Twitter al profilo A Rivista Anarchica. Vi segnalo anche l'indirizzo del nostro sito www.arivista.org. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, ci risentiamo alla prossima puntata.